Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette e nove minuti, inizia la prima puntata della settimana di Focus Economia. Beh, insomma, l'ha presa bene il mercato la valutazione degli stress test sulle banche, visto che, contrariamente a tutte le varie previsioni di ogni segno che abbiamo ascoltato la settimana scorsa, il Monte dei Paschi adesso perde un tranquillo 20% ed è praticamente a 79 centesimi di euro per azione, sospeso più volte, bloccate le vendite allo scoperto per il Monte dei Paschi. UbiBanca perde 4,70. Qui però entriamo in banche che ormai immagino molti di voi sappiano e conoscono la notizia. Ci sono sostanzialmente due banche che non hanno passato in maniera netta gli stress test e poi un insieme di altre banche cui sono state chieste aumenti di capitale ma molto molto minori. Mi riferisco, per quello che riguarda Monte dei Paschi, a 2 miliardi e 110 milioni in più richiesti e la Cassa del Risparmio di Genova 810 milioni. Poi ci sono altre banche che sono state, diciamo, da un lato bocciate, ma a cui non è stato chiesto un aumento di capitale, per esempio Veneto Banca, Banco Popolare. La Popolare di Milano ha avuto una richiesta per 17 milioni, per 170 milioni di euro di aumento di capitale, 220 per la Banca Popolare di Vicenza, e invece zero, ma sempre non hanno passato il test, ma non viene richiesto un aumento di capitale per quindi banche viste in difficoltà per Veneto Banca, Banca Popolare e ancora Credito Valtellinese, Popolare di Sondrio e Banca Popolare dell'Emilia Romagna. Nel complesso tutte le banche bocciate, diciamo così, dagli stress test, a tutte le banche bocciate in Europa dagli stress test viene richiesto un complessivo aumento di capitale pari a 9 miliardi e 500 milioni di euro. Allora, oggi conviene guardare soprattutto anche i migliori e i peggiori, perché se il peggiore in assoluto è il Monte dei Paschi, meno 20%, il secondo peggior titolo è appunto la Cassa di Risparmio di Genova, che perde il 15,90%, e anche qui l'indicazione che arriva dal mercato è netta. Poi andremo anche a analizzare le singole banche, ma faccio notare che il Credito Valtellinese invece oggi guadagna il 2,44%, evidentemente c'era chi pensava in una richiesta di un vero e proprio aumento di capitale. Così come altre banche che pure non hanno ottenuto un buon voto, diciamo così, dagli stress test, non hanno andamenti così negativi in borsa. Tra quelle che invece, pur non avendo avuto indicazioni così negative, ma la Popolare di Milano, per esempio, alla Popolare di Milano è stato chiesto un aumento di 170 milioni, la Popolare di Milano perde il 4,30%, li perde anche UbiBanca il 4,60%, la Popolare Emilia Romagna, qui è stato chiesto di nessun aumento, ma il voto non è entusiasmante, la Popolare Emilia Romagna, dicevo, in questo momento perde 3%, ma il 2,5% lo perde anche Intesa San Paolo, che non rientra nel nucleo di banche individuate come problematiche. Unicredit meno 2%, anch'esso. Il Banco Popolare perde l'1,14%. Chi va bene oggi solo A2A più 2,20% e Atlantia più 0,30%. Di questo ci occuperemo per buona parte del programma, anche perché c'è chi lo ha fatto, per esempio, su Sole 24 Ore, Donato Masciandaro, Marco Nado, scusatemi, ha detto: attenzione, per carità, tutto bene con gli stress test, però si nota come non c'è nessuna banca, grande banca francese, tedesca o britannica, che pure hanno bilanci fortemente esposti verso attività speculative assai rischiose, oltre che opache, però lì non c'è nessun tipo di bocciatura o avvertimento. Perfino Deutsche Bank, una delle banche più chiacchierate, che ha fatto un aumento di capitale da 8 miliardi, passa il test a gonfie vele, e anche le banche spagnole che hanno in realtà un problema sui prestiti per il settore immobiliare. Allora, dice Marco Nardo, che sarà nostro ospite, attenzione, vengono privilegiati in questi stress test le attività in titoli, per quanto siano speculativi, rispetto alle attività di prestiti alle imprese. E in Italia, dove i prestiti vanno a imprese che spesso sono piccole e medie, quindi per i criteri di Basilea sono sostanzialmente giudicate più a rischio, l'Italia viene per la sua struttura produttiva penalizzata, ed è il motivo per cui quando scoppiò la crisi, lo ricorderete, nel 2008-2009, si disse le banche italiane parlavano meno inglese, fu l'espressione di Tremonti, e quindi sono meno esposte, ed era così, non hanno avuto gli scossoni che hanno avuto banche britanniche e anche alcune banche tedesche e francesi. Adesso ne escono peggio per i criteri adottati. Non è una giustificazione per le banche italiane, però bisogna anche riconoscere che se c'è un paese che ha una struttura enorme di piccole e medie imprese, più ancora della Germania, che è un paese a forte vocazione manifatturiera, in cui alle banche viene chiesto di prestare soldi alle imprese, se tu fai degli stress test in cui si privilegiano le attività in titoli, che ovviamente sono più rischiose rispetto ai prestiti alle imprese, noi ne usciamo particolarmente penalizzati. L'altro tema di cui ci occuperemo riguarda la lettera, non c'è moltissimo ancora, che l'Italia ha scritto all'Europa dopo aver ricevuto la famosa lettera dall'Europa sulla manovra finanziaria. Il ministro Piercarlo Padoan, nella lettera inviata al vicepresidente della Commissione Europea Katainen, ha annunciato un pacchetto di misure per tagliare ulteriormente dello 0,3% il deficit, misure che valgono 4,5 miliardi. 3,3 miliardi verranno presi dal fondo per la riduzione delle tasse, 0,5 miliardo verrà preso dai fondi per i cofinanziamenti dell'Unione Europea e 730 milioni da un'estensione del regime del reverse charge per l'IVA. E l'Italia fa notare che comunque, nonostante lo sforzo delle riforme, manteniamo il deficit sotto il 3% del PIL, e sempre l'Italia nella lettera dice attenzione, il nostro PIL è calato di oltre il 9% rispetto al 2008, siamo al terzo anno di recessione, va evitato in ogni modo un quarto anno di recessione. Sempre il governo assicura all'Unione Europea che il debito si trova su un percorso di ribasso anche grazie all'ambizioso piano di privatizzazioni pari a una media annua dello 0,7% del PIL, che vuol dire sostanzialmente 10 miliardi di euro l'anno. Altri elementi poi li toccheremo, per esempio il ministro dell'economia fa notare che la Commissione Europea deve tenere pienamente in considerazione la versione rivista del documento economico finanziario che prepareremo nei prossimi giorni. Insomma, risponde dicendo ok, ridurremo dello 0,3 il deficit, perché c'era tutto il dibattito sul deficit strutturale rispetto a quello che è anche congiunturale. Allora, questi temi di borsa, altro non ho da aggiungere, se non che l'indice perde il 2,20%, mentre Parigi perde lo 0,70%, Francoforte lo 0,90%, Londra meno 0,30%, l'America meno 0,17%, lo spread si è riportato in alcuni momenti a 170 punti, ma non mi sembra una cosa, meglio averlo a 130, ma non mi sembra una cosa ancora allarmante, mentre l'euro è a quota 1,27 sul dollaro. 349-238-6666 per i vostri sms e la pagina di Focus Economia su Facebook. Di Europa, poco fa il presidente della Confindustria Squinzi, intervenuto all'assemblea degli industriali di Pavia, dice anche se sforassimo un po' i parametri dell'Unione Europea non sarebbe la fine del mondo, l'Europa deve rivedere la propria politica per consentire investimenti soprattutto per infrastrutture, ricerca e sviluppo. E poi torna sui temi toccati da Renzi alla Leopolda, dice è vero che il posto fisso in questo paese non c'è più. altre notizie in breve per quello che riguarda il Brasile. Avremo anche un approfondimento perché è stata rieletta, come già sapete forse, dei nostri GR24 la presidente brasiliana Dilma Rousseff con il 51,64% dei voti. Lo sfidante Aécio Neves ha ottenuto il 48,36% dei voti, quasi 55 milioni di voti per la Rousseff e 51 milioni di voti per Neves. Non ha reagito bene la valuta brasiliana, il real, meno 3% sul dollaro, praticamente il peggior ribasso in una singola seduta dal 2011. Siamo per la precisione a 2,55 real. Mentre un'altra lezione importante anche per gli assetti geopolitici, mi riferisco all'Ucraina, testa a testa tra il fronte popolare del premier Yatsenyuk e il presidente Poroshenko, quindi da un lato il fronte popolare, dall'altro il blocco del presidente Poroshenko. Secondo la commissione elettorale centrale sarebbero a metà, un po' più della metà delle schede scrutinate, sarebbe in testa il fronte popolare di Yatsenyuk con il 21,57% dei voti contro il 21,42%, quindi siamo veramente vicini a testa a testa tra i due. Mi chiedete quante banche sono state bocciate sul totale, su 130 che hanno subito gli stress test, le bocciate sono 25. E la carenza di capitale complessiva è di 25 miliardi, gli aumenti di capitale richiesti sono pari complessivamente a 9 miliardi e mezzo. Questo perché? Perché gli esami della Banca Centrale Europea riconoscono il rafforzamento del capitale con cui 12 di queste banche si sono nel frattempo messe al sicuro. Resta appunto il cartellino rosso per le altre 13, per cui le 25 banche europee bocciate, alcune di queste nel frattempo, siccome gli stress test erano relativi al 2013, hanno già operato aumenti di capitali. I paesi più colpiti: Italia, Grecia e Cipro. Nessuna brutta sorpresa per la Francia, appunto, al di là di Dexia, e la Germania, dove invece c'erano molte voci su Deutsche Bank. Grecia e Cipro hanno 3 bocciature ciascuna e assieme a Italia e Portogallo guidano la classifica, che hanno 2 bocciature ciascuna, dei paesi in cui è stata evidenziata una carenza di capitale. Visto che parlavamo della lettera però che l'Italia ha scritto alla Commissione Europea, anche la Francia oggi ha scritto, o meglio, secondo le indiscrezioni di Le Figaro, la Francia, nel rispondere alla lettera del commissario europeo agli affari economici Katainen, ha detto: la debole attività in tutta Europa e la bassa inflazione che nessuno aveva previsto non consentono alla Francia di fare altri sforzi rispetto agli attuali 21 miliardi di tagli alle spese per il 2015. Quindi la Francia dice: no, questa è la nostra finanziaria e altri sforzi non ne possiamo fare. Vedremo quale poi sarà la risposta europea, perché la lettera è preliminare alla bocciatura, è una specie di avvertimento che dice: guarda che con la finanziaria che abbiamo visto, la finanziaria che tu ci hai proposto, ci hai esposto, verrebbe bocciata, quindi ti scriviamo una lettera per dire dove notiamo le criticità. Poi se il paese risponde: no, questa è la mia finanziaria, da quello che noi abbiamo sempre visto, alla Commissione Europea non resta che bocciarla per quello che vale. Ma devo dire, insomma, che mentre l'Italia ha detto ok, correggeremo il deficit di 0,3%, la Francia ha detto no, mi dispiace. Allora, per quello che riguarda la legge di stabilità e le parti sociali, Adesso arriviamo anche al tema degli stress test. Sono successe alcune cose nel fine settimana, per usare un eufemismo. Da un lato la manifestazione della CGIL, oltre 1 milione, dice la CGIL, in piazza sabato, e poi la Leopolda venerdì, sabato e domenica. Ne parleremo anche più avanti, però iniziamo da lì, perché ci sono alcune dichiarazioni oggi e c'è un appello che vorremmo fare, modestamente, insomma, non so con quali esiti, anche al governo Renzi. Di tutto possiamo ragionare sulla legge di stabilità. Oggi c'è anche l'incontro tra governo e le parti sociali, quindi sindacati, Confindustria, l'ordine è crescita e lavoro. Susanna Camusso ha detto per ora non sono arrivate risposte e non c'è ancora stato un confronto vero e proprio. Sul posto fisso Renzi non sa di cosa parla quando dice che il posto fisso non c'è più ed è facile stare con i forti e il governo deve stare con i deboli, aggiunge anche la Camusso. Quando gli viene chiesto ma voi non avete problemi a dialogare con un governo che ascolta i grandi finanzieri come Davide Serra, non abbiamo il problema di coloro con i quali si confronta il Presidente del Consiglio, che è un uomo libero in un paese libero, e il problema è il lavoro che fa. Allora, Davide Serra è stato ospite almeno 3-4 volte in questo programma per parlare sia della sua rapporto con Renzi e anche della situazione di borsa e di finanza. Lui gestisce un fondo si chiama Algebris, ha diverse partecipazioni anche in società italiane. Ora è ovvio che, così come i nostri programmi, ha detto ciò che ha voluto, va alla Leopolda e dice quello che ha voluto. Dopodiché introdurre in questo periodo, cioè, diciamo così, meno male che Serra fa il finanziere, vedendo i risultati lo fa anche bene, e non il politico, perché introdurre il tema, che non c'entra assolutamente nulla, del diritto allo sciopero in un momento in cui si sta cercando di portare a casa una riforma sul Jobs Act che si è incancrenita sull'articolo 18, a me sembra una, possiamo dirla con un francesismo, una cappellata clamorosa. Cioè, ma che ti viene in mente di parlare del diritto di sciopero, da limitarsi, da fare? È un tema che non è in discussione in nessun paese. Abbiamo già ragionato anche in questo programma sui permessi sindacali, che sono un'altra cosa e che pesano moltissimo nel bilancio, soprattutto delle medie e piccole imprese. Però, cioè, introdurre il tema del diritto di sciopero, a mio avviso, fai anche un danno alla Leopolda. Infatti ho visto la corsa a dissociarsi, perché già siete accusati, diciamo, i partecipanti alla Leopolda di non tenere abbastanza in considerazione i diritti dei dipendenti e degli operai. C'è uno scontro col sindacato sull'articolo 18. Renzi, giustamente, dal suo punto di vista, introduce il tema del posto fisso che non c'è più, per dire che, attenzione, non possiamo ragionare solo o contrapporre chi ha tutti i diritti come il posto fisso e chi invece ha solo diritti da precario come i giovani. Introdurre il tema del diritto di sciopero, ripeto, è una cappellata totale, perché voglio dire, che cosa c'entra? Ma iniziamo a fare le riforme che riusciamo a fare. Questa è una riforma che in nessun paese occidentale si è introdotto. Poi, se uno vuole dire quello che vuole, per carità, può. Dopodiché, che il posto fisso non esista più vale nel privato, perché nel pubblico, e non ce l'ho col pubblico oggi, ma il posto fisso c'è ed è come se c'è. Per cui, questo, insomma, potevamo anche risparmiarci un dibattito sul diritto di sciopero, non se ne sentiva il bisogno. Ma uno può venire e dire quello che vuole, dopo il ci mancherebbe, può anche dire che è sbagliato che la domenica uno si riposi, e in alcune categorie già non è così, tutto quello che si vuole, che tutti dovrebbero diventare anche precari, ma che cosa c'entra in questo periodo? Cioè, non è il gioco, a meno che forse ho capito male l'obiettivo della Leopolda, ma l'obiettivo non è a chi la spara più grossa, come si diceva una volta, no? In questo caso la sparata è veramente grossa, abbiate pazienza. Ma c'è un appello che vorremmo fare, non c'entra nulla Davide Serra e la rivisitazione del diritto di sciopero. L'appello è al governo, perché, e qui veramente ce l'ho anche con Renzi per quello che può significare, ma che senso ha fare tutta sta manfrina quest'estate, stucchevole in alcuni casi, dell'ice bucket, quel secchio d'acqua ghiacciata che tutti i VIP si tiravano in testa, non si capisce se per marketing loro o per un vero aiuto. L'obiettivo era raccogliere fondi anche per la SLA, no? Allora non tiratevi, e lo dico anche al Premier, che giustamente dal suo punto di vista si è tirato il secchio d'acqua, si è fatto tirare il secchio d'acqua in testa. Se poi tagliate da 350 a 250 milioni i fondi complessivi per i non autosufficienti, inclusi i malati di SLA, che in Italia sono 6.000, ma non tocca solo loro. Allora non giochiamo con la disperazione e i drammi delle persone, perché è inutile che il governo, o meglio il Ministero dell'Economia, dica: beh, attenzione, abbiamo messo 250 milioni, sono pochi ma stabili. Ma che vuol dire pochi ma stabili? Siccome questo fondo viene finanziato ogni anno dal governo, partì 3-4 anni fa con 500 milioni, poi i vari governi lo tagliarono di volta in volta, l'ultima volta fu 350 milioni, adesso è 250, sono 100 milioni in meno, ossia quasi un terzo in meno. Allora, siccome ci sono in questo paese 2 milioni e mezzo di persone non autosufficienti, che vivono anche il dramma, non solo loro, ma i loro parenti, i genitori, i figli, se la persona è un anziano, i genitori, se la persona è un bambino, e questi soldi servono, non è che questo garantisca completamente l'assistenza alle persone non autosufficienti, sono le risorse essenziali. Non sostituisce le normali prestazioni sanitarie, dà dei contributi per gli insegnanti di sostegno, per l'accompagnamento, per, ripeto, gli anziani. Che senso ha risparmiare 100 milioni di euro per mettere in difficoltà queste famiglie che già hanno visto ridotto notevolmente questo fondo? È una vergogna, per 100 milioni di euro? Guarda, se solo prendiamo l'ultimo anno di puntata di Focus Economia e rileggiamo tutti gli sprechi che abbiamo raccontato dei ministeri, delle regioni e delle province e dei comuni, arriviamo altro che a 100 milioni di euro. Allora levate, visto che alle regioni avete levato 4 miliardi, levate 4 miliardi e 100, o levate 100 milioni ai ministeri, e evitate questo schifo totale. Presidente Renzi, su questo lei si deve vergognare. Ma che è l'ice bucket? È una presa per il secchio, ok? Allora, e rimettete almeno al livello a cui era l'anno scorso. Non è poco tagliare di quasi il 30% le risorse destinate al fondo per le non autosufficienze. Non è poco. Allora, voglio dire, poi i discorsi sullo sciopero, ma chi se ne frega dello sciopero? Non è questo l'obiettivo. Rimettete e continueremo così finché potremo, tanto poi quando la manovra va. Non potremo più far nulla, ogni giorno faremo l'appello per i 100 milioni per il fondo delle autosufficienze, dicendo che è uno schifo che il Presidente del Consiglio si tiri il secchio d'acqua in testa per farsi pubblicità, nominato da Fiorello, e poi autorizzi la riduzione di quasi il 30% del fondo per i parenti meno secchiate d'acqua e più soldi, almeno quelli precedenti. E non mi dite che non si trovano 100 milioni di euro in questo cavolo di paese, su 830 miliardi di spesa pubblica non si trovano 100 milioni di euro per mantenere almeno le prestazioni dell'anno scorso. minuti, adesso parliamo di banche, di stress test. Però guardate, con questa cosa dei non autosufficienti, a parte che stanno scrivendo moltissimi papà, mamme di bambini che hanno problemi, quindi c'è un doppio accanimento, perché già sono famiglie che hanno delle difficoltà enormi, ma non solo di carattere economico, ma anche delle volte di carattere economico, oltre che drammi personali. Andiamo pure a levare 100 milioni da lì. Ma io dico una cosa, ma porca miseria, allora poi mi girano, scusate il linguaggio poco francese, e confermo che tutti i giorni da qua fino al 31 dicembre, cioè quando dovrebbe essere approvata sta legge di stabilità, la Boschi ha detto che arriverà a fine dicembre, perfetto, tutti i giorni prepariamo per favore in regia domani anche uno stacchetto ad hoc con accanto tutti gli sprechi che abbiamo documentato in questi anni, dai vitalizi, ma non è vitalizio, non me ne frega nulla, non faccio il politico io, non faccio giornalista, che cerchino dove possono i 100 milioni, ma dire che sta finanziaria per lo 0,001% del deficit bisogna levare il 30% a chi non è autosufficiente. Allora non ci pigliate, diciamo, per i fondelli sugli 80 euro a bebè, perché quelli devono ancora nascere, questi sono già nati. Allora pensiamo a chi è già nato e pensiamo anche, per carità, a chi deve ancora nascere. Ma che discorso è? Se no diventa propaganda. E allora la Leopolda è un bellissimo luogo dove sparare delle grandissime cavolate delle volte, come abbiamo ascoltato in questi giorni, ma non perché perché si stia con la Camusso, ma che non diciamo cavolate, ma tirate fuori questi 100 milioni, è una vergogna. E il Ministero dell'Economia non si permetta di rispondere che, perché veramente fessi non siamo, sono pochi ma stabili. Ma che vuol dire poco ma stabile? Cioè anche quel volatile che vola basso e può essere poco ma stabile, ma non è un piacere, no? Allora, tutti i giorni da qua al 31 dicembre noi l'appello sulla SLA, sulle non autosufficienze lo facciamo, anche intervistando domani chi rappresenta le persone, e tutti i giorni. Poi non servirà a nulla, ma almeno qualcuno lo ascolterà. Poi, voglio dire, se gli piace così, andassero avanti così. Allora, le banche stressate, non solo le banche, devo dire, in questo paese. Allora, 13 cui 4 italiane, abbiamo spiegato già tutto, 25 banche europee bocciate, in realtà siccome 12 avevano già fatto aumenti di capitale, 13 sono rimaste, 13 quelle che devono reperire in tutto 9 miliardi e mezzo di euro. Ripeto la lista delle banche che bocciate da BCE, a cui è stato chiesto un aumento di capitale, o comunque non è stato chiesto l'aumento, ma sono su livelli di guardia. Monte dei Paschi, 2 miliardi e 110 milioni di aumento richiesto per mettersi in riga con gli stress test. Banca, la Cassa di risparmio di Genova, 810 milioni. Poi la Popolare di Milano, 170 milioni, mentre e la Popolare di Vicenza, 220 milioni. Nessuna richiesta, ma non promosse, per Veneto Banca, Banco Popolare, Credito Valtellinese e Popolare di Sondrio, ma anche la Popolare dell'Emilia Romagna. Professor Donato Masciandaro, docente di economia politica alla Bocconi, buonasera. Editorialista del Sole 24 Ore, buonasera. E buonasera anche al professor Marco Nado, che anche lui scrive su Sole 24 Ore ed è docente di economia degli intermediari finanziari alla Bocconi. Buonasera anche a lei, professore. Buonasera. Buonasera. Allora, siccome so che Onado ci deve lasciare entro le 18, vorrei partire da lei, perché su Sole 24 Ore lei ha scritto, traduco e sintetizzo in maniera un po' brutale: bene gli stress test, però com'è possibile che nessuna banca francese, tedesca, britannica venga indicata, nemmeno la Deutsche Bank, che ha fatto un aumento di capitale da 8 miliardi, e molte banche siano italiane, sapendo che le italiane meno delle francesi, delle inglesi e delle tedesche investono in titoli e prestano più soldi, o meglio, e hanno più esposizione verso le imprese. Qual è il motivo secondo lei, professor Onado? Ma allora, il motivo per cui ci sono tante italiane nei bocciati, almeno nei bocciati della prima categoria, quelli che non erano in regola al 31 dicembre 2013, perché poi considerando quello che è avvenuto nel frattempo, i bocciati si riducono a due, e non a caso sono le due banche che con casi clamorosi di malagestio come Monte dei Paschi e Carige. Questo si spiega, la presenza degli italiani, con il fatto che abbiamo avuto 7 anni consecutivi di caduta del PIL, 11 punti, una cosa che non era mai successa, non solo in Italia ma in nessun paese avanzato. E questo naturalmente peggiora la qualità del credito, e questo naturalmente si riflette sui bilanci delle banche. E quindi il sistema bancario, che era il più robusto d'Europa, o almeno tale si considerava al momento in cui la crisi è scoppiata, oggi fa fatica, e ci sono tante banche in posizioni critiche quante ce ne sono in Grecia. Questo è il, però, questo, diciamo, cioè, quindi se ho ben capito, il problema è gli assenti, non è i presenti. I presenti si spiegano, ma si spiega assai meno, perché banche che, come Deutsche Bank, che ha un trilione di attività su cui non paga capitale, mille miliardi di la magia del mistero gaudio e glorioso dei modelli interni di valutazione del rischio dice che sono a rischio zero. Allora, professor Nado, però aiuti a capire anche noi, perché una banca che ha un'esposizione enorme in titoli, per cui c'è, sui titoli c'è molta volatilità, c'è incertezza, ci può essere anche opacità sull'operazione finanziaria, c'è comunque un rischio, ci può essere anche della speculazione, viene premiata rispetto a una banca che è più esposta per esempio sulle piccole e medie imprese. Ma non per dire che il Monte dei Paschi vada bene, non me ne frega nulla, io voglio capire perché non ci sono anche alcune francesi, tedesche, inglesi. Esattamente, ma queste sono le distorsioni, a mio parere, di Basilea, del modo con cui si sta calcolando i requisiti di capitale, con modalità che sono fondamentalmente basate su quello che dicono le banche, che fanno le banche. Questo è stato il grande mutamento che si è avuto nel 2004, quando si è passati dal 2001 al 2000, da Basilea 1 a Basilea 2. Quindi è quello che entra, per cui siccome Basilea 1 e Basilea 2 pongono dei criteri, se non possiamo spiegarlo in diretta, ma dei criteri molto rigidi che vanno di fatto a penalizzare i prestiti alle piccole e medie imprese, perché tra l'altro si chiede alle banche di accantonare molti soldi quando fai un prestito a chi non ha la AAA e difficilmente le piccole e medie imprese ce l'hanno, lei dice questo si ripercuote poi sugli stress test e paradossalmente viene indicata una banca che deve ricapitalizzare o delle banche che devono aumentare i soldi in cascina per il tipo di esposizione che hanno, ma non vengono indicate altre banche nonostante attività e investimenti quantomeno rischiosi. Masciandaro, d'accordo? Sono d'accordo, mi lasci dire che unisco la mia piccola voce al suo sdegno per i centri. Oh, abbiamo prima adesione, no, perché mi scrive un ascoltatore: sei il solito populista da strapazzo, indici una raccolta di firme se vuoi veramente fare una battaglia, altrimenti limitati a dare la notizia senza tanta enfasi. A parte che faccio anche quello che voglio finché conduco questo programma, caro ascoltatore, ma non è per arroganza che glielo dico, indiremo anche una raccolta di firme, faremo tutto quello che volete, intanto iniziamo a farlo notare in questo programma tutti i giorni da qua al 31 dicembre, dandogli uno spazio apposito, non mi sembra una cosa da poco. Dopodiché Masciandaro è il primo che aderisce a questa iniziativa, 100 milioni su 350 levati alle famiglie con i portatori di handicap o con le persone non autosufficienti è uno schifo, a maggior ragione di un premier che si è fatto l'ice bucket, se no verrebbe voglia di indire una manifestazione in cui tutti andiamo a fare l'ice bucket davanti a Montecitorio, ma non faccio questo lavoro, ne faccio un altro. Comunque Masciandaro, mi scusi, l'ho interrotto. Ma mi sembrava più importante francamente gli stress test. Quindi però tornando alla sua domanda, quello che ha detto Marco Nado sui contenuti lo condivido. Io vorrei fare un'altra osservazione: ho trovato completamente sbagliata la politica di annuncio della BCE sui test, e trovo che in un momento in cui il mercato ha grande incertezza, sbagliare le politiche di annuncio è almeno altrettanto grave nello sbagliare i contenuti. Io ho visto almeno tre problemi, non so se posso declinarli. Allora, professor Masciandaro, l'ho interrotta. Quali sono gli altri tre problemi che lei ha visto, diciamo, nella gestione della Banca Centrale Europea di questi test, questi stress test sulle banche, che andavano a individuare come avrebbe reagito una banca di fronte allo scenario peggiore? L'ho fatto molte volte l'esempio, come quando si fa un test su un'automobile, si fa un incidente, per cui di fronte a una congiuntura negativa, uno shock esterno, come avrebbe reagito la banca? Prego. Sono, doveva essere una valutazione sui bilanci delle maggiori banche europee. Quante sono queste maggiori banche europee? 130 come quelle di cui abbiamo visto il bilancio? Sono 120? Sono quelle che controllerà la BCE dal 4 novembre? Sono 123 quelle che l'EBA ha sottoposto a stress test, considerando anche le banche di paesi non partecipanti all'Unione? Di quali banche stiamo parlando? Di questi tre numeri solo 93 fanno parte di tutti e tre gli insiemi, quindi questo è un problema da risolvere. Secondo problema, diamo tre pagelle lo stesso giorno, diamo una pagella sul bilancio, diamo una pagella su una simulazione dolce, diamo una pagella su una simulazione dura. Perché tre pagelle? Perché non ci limitiamo nel momento in cui stiamo entrando nell'unione bancaria all'unica pagella non aleatoria, o meglio, la meno aleatoria, quella sui bilanci? Perché aggiungere questi stress test che sono A, assolutamente aleatori perché sono soggettivi, B, non so, ed è legato, non sono delle proiezioni, sono delle simulazioni e sono già superate dalla realtà, come hanno dimostrato i dati della simulazione di ieri. Terzo problema, diamo tre pagelle però con dati vecchi. Dopodiché le autorità nazionali ne devono dare altre tre, quindi arriviamo a un totale di sei pagelle, per cui alla fine le banche italiane bocciate, brutto termine by the way, sono a seconda del calcolo, e lei meno male le ha ricordate tutte, sono 9, 8, 4, 2, 0, può anche essere 0. Ultima effetto di questo non significa dare informazione, significa far confusione. Hanno dato informazione, hanno fatto confusione. Cito due episodi di confusione. Il primo, la conferenza stampa di Francoforte. È stata molto bella la domanda apparentemente innocente di una giornalista che chiedeva ragione delle discrasie. Prima hanno fatto finta di non capire e poi le hanno risposto con una malcelata, come dire, insofferenza. Secondo episodio, guardiamo i giornali di stamattina sulla stampa italiana, le banche bocciate vanno da 2 sole 24 ore a 9. Guardiamo la stampa internazionale, purtroppo lì il coro è unico, sono tutte 9, perché le banche italiane sono deboli, che la vigilanza italiana non va bene, perché il sistema paese non va bene, perché l'euro è una rovina. Ora, qual era l'obiettivo di questo annuncio? Fare confusione o fare informazione? Chiarissimo. Resti con noi, Masciandaro. Professor Onado, su questo dice il professor Masciandaro, attenzione che anch'io devo ammettere, ma io sono un ignorante noto, ho avuto un po' di difficoltà a capire, ma sono il Monte dei Paschi e la Cassa di Premio di Genova? No, perché un po' hai chiesto anche alla Popolare di Milano, alla Popolare di Vicenza, però poi a zero e quindi sotto osservazione non hanno passato il test anche Veneto Banca, Banco Popolare, Credito Valtellinese, Popolare di Sondrio e Popolare Emilia Romagna, che non devono fare aumenti di capitale ma non hanno passato i test. In effetti poi di queste 25, 12 hanno già fatto gli aumenti di capitale, quindi ne restano 13. Oddio, un po' di caos c'era in questi test, nel senso che io ci ho messo un po' a capire, anche perché considerare quello che è successo dal 1 gennaio 2014 ad oggi come il secondo fotogramma di un film e non darci l'ultimo, francamente non è stato chiaro, insomma. Ci sono anche, se vogliamo aggiungere, a me ha dato fastidio il fatto che venerdì sia uscito su tutti i giornali le banche sono 25 esattamente erano 25, quindi vabbè, che qualcuno qualche informazione l'avesse avuta prima modestamente guardando il mercato ce ne eravamo accorti. Vorrei fare una domanda al professor Onado e poi dopo il GR24 anche al professor Masciandaro. Adesso che cosa capiterà secondo lei? Ho un minuto scarso, purtroppo, Onado. Queste banche dovranno rispondere, no? Sì, ma io credo che il problema fondamentale per l'Italia sia il Monte dei Paschi, perché la situazione è davvero critica, insomma, ecco, quindi credo che il piano di ristrutturazione che prevedeva che la banca si salvasse con le sue gambe in questo momento è... Sì, poi tra l'altro oggi ha perso anche un quinto della sua capitalizzazione in borsa, perché ha perso 21%, 21,5%, quindi la situazione si complica ulteriormente a 81 centesimi. Piove sul bagnato, sì. Ha ragione professor Onado, e quindi lei dice sostanzialmente qui il vero problema sarà cosa fare del Monte dei Paschi. A chi me lo chiede, faccio notare che abbiamo chiamato sia Alessandro Profumo ma soprattutto Fabrizio Viola, oggi non ce la poteva fare intervenire nel programma, forse anche immaginabile che abbia avuto una giornata un po' intensa, e vedremo di averlo ospite se riusciamo domani in diretta. Grazie intanto Marco Onado. Donato Masciandaro, resti con noi. One and one for my friend, he could give. 8:08, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Adesso voglio far rispondere il professor Masciandaro, sempre sugli stress test bancari, e aggiungere anche altri rilievi che ci arrivano da banchieri, bancari, operatori di borsa nel frattempo. Una cosa invece la voglio confermare: tutti i giorni, adesso lo stiamo preparando, perché anche noi abbiamo avuto prima gli stress test, prima ancora la lettera alla BCE, la lettera alla Commissione Europea, tutti i giorni finché la finanziaria non passa in Parlamento faremo un appello perché almeno il fondo per i non autosufficienti, guardate che non è, mi scrive un ascoltatore, i malati di SLA non sono diversi da giovani, precari, disoccupati, anziani, pensionati. Allora, guardi, due cavolate, una grossa e una piccola. Quella piccola è che i 100 milioni tagliati sui 350 milioni del fondo per i non autosufficienti riguardano tutti gli autosufficienti, inclusi i malati di SLA. Li abbiamo citati perché il Premier ha fatto l'ice bucket quest'estate, tirandosi la secchiata d'acqua fredda in testa sulla SLA, e poi mi levi 100 milioni anche a loro. Che lei dica non sono diversi da giovani, da precari, da disoccupati, anziani, pensionati, sta dicendo una tale castroneria che ho pena per lei, mettiamola così, perché se lei non capisce, ed è fortunato chiaramente nel non capirlo, cosa significa avere non un giovane, un precario, un disoccupato, che è pure un dramma, ma una persona portatrice di handicap, il dramma che è permanente per i suoi parenti, per i genitori, per i fratelli, sia che sia un genitore sia che sia un bambino. Io non posso che provare una profonda, profonda tristezza e pena per lei. Per tutti gli altri confermo che faremo questo appello ogni giorno. Vediamo anche chi farlo fare, qualche idea già ce l'abbiamo, e vediamo anche se il governo, non lo so, magari ha il coraggio di rispondere. E se no, la manifestazione, ma ci può stare anche una manifestazione con i secchi d'acqua ghiacciati davanti al Parlamento, capito? Da quel punto l'ice bucket glielo fa qualcun altro. Ma non tanto, e mi scrive qualcuno, sempre a chiedere soldi al pubblico, ma di cosa stiamo parlando? Voglio dire, ma vogliamo fare il calcolo, domani lo faremo, su quanto risparmieremo con i vitalizi? Da sola mette 11 milioni a bilancio la Regione Lombardia, solo di vitalizi, per ex consiglieri regionali, visto che non c'è più il posto fisso. Fate una legge retroattiva, non me ne frega nulla. O se no, trovate 100 milioni su 850 miliardi di spesa pubblica, 100 milioni si possono trovare. Non è Renzi quello che ha detto a Bruxelles, con fare un po' guascone, ma 2 miliardi li troviamo domani? Ecco, se trovi 2 miliardi domani, 100 milioni li hai già beccati nel tempo della diretta di Focus Economia, e becca sti 100 milioni. Ma che facciamo? Lo 0,001% del deficit sulle spalle di famiglie che già vivono una tragedia. Ma per favore, altro che diritto allo sciopero, su. Allora, Masciandaro, cosa capiterà adesso ai titoli coinvolti? Faccio notare che, mi scusi, il Monte dei Paschi ha perso un quarto del suo valore. Sì. Se la BCE non avesse fatto gli stress test, tutte le banche italiane avrebbero avuto i bilanci approvati. Domanda, il Monte dei Paschi avrebbe perso un quarto del suo valore? Perché c'è chi mi scrive, la Banca Centrale Europea doveva disporre alle varie consob, alle varie autorità dei vari paesi, quindi in questo caso soprattutto Italia, Grecia e Cipro, il blocco delle trattazioni, cioè della negoziazione di tutti i titoli coinvolti, perché sennò oggi è stata il paradiso dello shortista, che non è un negozio simpatico, è il paradiso di chi specula, perché ovviamente forse anche si poteva pensare a una sospensione del titolo finché la banca stessa non comunicava che cosa ha intenzione di fare, o no, Masciandaro? È un'idea molto intelligente, verrebbe facile la battuta, ecco perché non è venuta alle authority. Le authority mi sono sembrate davvero più preoccupate, ciascuno ricordare il suo perimetro, perché dobbiamo ricordarcelo, qui ci sono delle authority in competizione. C'è la BCE che per la prima volta fa il supervisore, c'è l'EBA che ahimè è una sorta di fratello di un dio minore, e in più ci sono 17/27 paesi in cui ci sono le autorità nazionali che ancora vogliono mantenere il loro perimetro. In tutto questo pensare a delle cose semplici come quelle che ci siamo raccontati non è venuto in mente a nessuno. Un po' triste, e non è stato senza costi, perché oggi c'è qualcuno che ha perso tanto. Eh sì, il Monte dei Paschi il 21,5%, UbiBanca il 5%, ma le altre, diciamo, sono più cali pesanti, ma nell'ordine delle cose che ogni tanto vediamo: la Popolare di Milano meno 4, la Popolare Emilia Romagna meno 4,20, alcune non sono neanche coinvolte negli stress test, cioè non risultano bocciate. Però obiettivamente, poi oggi la Consob ha sospeso le vendite allo scoperto, dovevi sospendere le compravendite in generale, a mio avviso, perché sennò è chiaro che domani magari il Monte dei Paschi fa un più 8 o lo fa fra 3 giorni e c'è chi guadagna nel breve e tutti gli altri prendono paura nel medio termine. Grazie a Donato Masciandaro, non ho dimenticato, grazie a lei professore, non ho dimenticato la borsa, anche se oggi la borsa si chiama stress test. E come sempre ogni tanto ospitiamo anche gestori per questo, cioè operatori di borsa, e oggi è la volta di Salvatore Gazziano, responsabile strategia di investimento di Soldi Expert. Buonasera. Buonasera. Dottor Gazziano, rapidamente, stiamo parlando con Donato Masciandaro e con Marco Nado già dalla prima ora. Intanto mi dica se lei era dell'idea di sospendere i titoli e le contrattazioni sui titoli finché le banche stesse non avrebbero dato una risposta a quel punto. Ma è una questione ricorrente, diciamo che aveva senso se la sospensione avveniva da subito questa mattina delle contrattazioni, se l'idea era quella, ma credo che poi alla fine il mercato, come venerdì, aveva speculato al rialzo, sia bene per esperienza. Abbiamo visto anche in periodi in cui i mercati sono stati presi dalle autorità decisioni di sospendere per un certo periodo di tempo le azioni, la negoziazione a ribasso, la possibilità di fare scoperto. Anche studi accademici dimostrano che in realtà il mercato è meglio lasciarlo esprimere, perché poi tanto alla fine viene sempre fuori il valore delle società, e quindi sono fenomeni giustamente temporanei, ma non è che cambiano poi più di tanto la discussione. Io credo che chi avesse varie azioni MPS penso che abbia ben idea di quello che sta succedendo in quella banca da tempo, non è che è un fulmine proprio a ciel sereno quello che è accaduto. Ecco, ma lei come si spiega la reazione così forte? Perché un mercato inizia a scommettere che Monte dei Paschi non ce la farà mai a fare 2 miliardi e passa di aumento di capitale? 2 miliardi, no, la reazione, per la precisione, 110 milioni. Sì, diciamo, è stato sicuramente superiore a quello che era previsto, ben superiore, quasi doppio. Devo dire che secondo me anche poi la discesa che ha coinvolto in tutto il settore bancario vi è anche un effetto negativo che si riverbera su tutto il sistema bancario italiano, a partire dai controlli. Ricordiamo che ci sono solo a giugno, quest'anno c'è stato l'aumento di capitale in Monte dei Paschi di Siena, mi ricordo bene le dichiarazioni di Viola e di Profumo che dicevano che erano galvanizzati dal successo di questa operazione che avrebbe riportato a nuova vita Monte dei Paschi di Siena. Il fatto che questa banca sia stata punita così severamente di fatto è anche una bocciatura nei confronti del sistema Banca Italia, che non solo non si era accorta negli anni passati di quello che succedeva bene nel MPS e Carige, e va detto che alcuni giornalisti, i nostri colleghi, avevano ben raccontato di cose strane che accadevano già da molto tempo in quelle banche, se ne sono accorti molto tardi, e che ancora poche settimane, mesi fa avevano dato il via libera pensando che si fosse risolta la situazione. Questo non dà una grande idea di solidità del nostro paese in termini di controllo. Peraltro questa mattina un fantastico articolo proprio sul Sole 24 Ore Plus, su un tema che spesso abbiamo trattato anche noi, delle azioni di banche non quotate, dimostra che il problema riguarda vari tipi di banche. Mi riferisco all'articolo di Gatti su Banca Popolare di Vicenza, delle difficoltà di molti azionisti di banche non quotate, non solo di quella banca, di poter liquidare le loro azioni. Sì, questo devo dire che non solo sulla propria Vicenza, ma a noi risulta anche su altre banche, Veneto Banca, non ce l'ho con nessuno, ci scrivono e noi riceviamo lettere e le leggiamo, di difficoltà di liquidare le partecipazioni prese in quelle banche. Allora attenzione, perché dopodiché lei allarga ulteriormente l'analisi anche alla Banca d'Italia. Faccio notare che ci sta, per carità, che la Banca d'Italia abbia un po' dormito sul Monte dei Paschi, non è che lo dico io. In realtà nel passato abbiamo visto anche, io condivido appieno l'analisi di Marco Nado, e cioè non è tanto il problema che ci siano queste 13 banche, è perché non ci sono altre banche, e lui si riferiva a alcune tedesche, francesi e inglesi, che hanno tantissime attività speculative in titoli, pochissimi prestiti alle imprese o minoritari rispetto alle banche italiane e vengono avvantaggiate, mentre sembra quasi che sulla base dei criteri di Basilea 2 vengano penalizzate le banche che prestano alle imprese, magari piccole e medie con basso voto, piuttosto che le banche che investono in vari strumenti finanziari speculativi a rischio, o no Graziano? Sì, questa è una questione anche questa che, come quella delle banche non quotate, abbiamo trattato spesso anche sul nostro blog Money Report, quello degli asset tossici che in banche tedesche hanno dei livelli mostruosi e che poi alla fine passano i test, è certo una cosa curiosa, però qua torniamo a parlare anche un po' del potere che ha ormai l'Italia all'interno di questi organismi come decisioni, come regole. Evidentemente l'Italia non ha molto potere quando vengono fatte queste regole, e non solo l'Inghilterra, abbiamo visto venerdì scorso su quello che riguarda la revisione del PIL, e vi è anche un problema probabilmente di prospettive, cioè evidentemente in economie come quella tedesca hanno anche gioco forte la possibilità di sostenere che l'economia loro ha prospettive di crescita e che magari riusciranno a ripagare parte di queste tossicità. In Italia quello che preoccupa più maggiormente è il fatto che non si vede ancora in realtà la luce in fondo al tunnel, soprattutto per l'economia e per soprattutto tutto ciò che riguarda il problema degli incagli, dei prestiti, delle sofferenze che molte banche sappiamo che hanno messo a bilancio in quote non probabilmente sufficienti se la recessione dovesse continuare. Sì, ci sono due fronti, da un lato è un fronte nostro, dall'altro, ma non per fare il nazionalista, faccio notare che questa valutazione va a vantaggio di un modo di fare banca del centro-nord Europa, molto più finanziario, molto più speculativo, molto più sui titoli, molto più sui investimenti appunto di prodotti finanziari, e va a svantaggio di un modello di banca che investa sulle piccole e medie imprese. No, perché bisogna mettersi d'accordo a un certo momento, perché io mi metto anche nei panni di un banchiere in questo momento che dice: da un lato mi chiedete di prestare soldi alle piccole e medie imprese, e lo fa lo stesso Mario Draghi, poi quando vai a fare i test, no, avvantaggi chi investe sui titoli e a svantaggio di chi investe sulle piccole e medie imprese. Mettetevi d'accordo. Comunque grazie a Salvatore Graziano, e dopo il traffico invece vorrei capire dal collega Moria Longo adesso che cosa dobbiamo aspettarci sul mercato, sia azionario che obbligazionario, dopo quello che è successo oggi e il risultato degli stress test. 349-238-6666 per i vostri SMS. Longo del Sole 24 Ore, a parte che mi stanno scrivendo altri ascoltatori su Veneto Banca, io leggo il messaggio così come lo ricevo: Veneto Banca che non liquiderebbe, chi vuole cedere le proprie azioni chiede di trovare un acquirente, ma in modo è, se vuoi vendere le azioni vengo liquidato. Ma al di là delle banche non quotate, in questo caso si parlava di Veneto Banca e di Popolare di Vicenza, e al di là delle critiche che già hanno mosso Masciandaro e Onado al modo in cui questi stress test sono stati condotti, scrive un ascoltatore oggi lo stress fest, perché c'è qualcuno che ci ha speculato non poco. Adesso che cosa capiterà, Moria? Allora, io credo che ragionevolmente il mercato possa iniziare a differenziare tra le due banche che sono uscite veramente con le ossa rotte da questi stress test, sparo dell'Italia, e le altre banche che invece ne sono uscite in alcuni casi molto bene. Devo dire che per esempio oggi il Credito Valtellinese, che pure non era uscito bene, nel senso che non ha chiesto, è tra le banche che non hanno avuto l'aumento di, non è stato richiesto l'aumento di capitale, ma non hanno passato il test, guadagna in borsa. Evidentemente qualcuno si aspettava che ne uscisse ancora peggio, così capisco io, è un esempio. Prego, scusa. Sì, ci sono banche che hanno sorpreso, per esempio il Banco Popolare ne è uscito molto bene con un eccesso di capitale superiore al miliardo e non era molto atteso. Anche UbiBank è uscita bene, Intesa San Paolo ne è uscita benissimo, Unicredito stessa. Quindi il mercato inizierà ovviamente a differenziare. Per quanto riguarda le due banche invece bocciate, Montepaschi e Carige, il crollo di oggi è abbastanza naturale, perché viene che il Montepaschi, che ha appena fatto un aumento di capitale da 5 miliardi, adesso ha altri 2 miliardi da chiedere al mercato. Questo è ovviamente deprime il titolo, non tanto perché si presuppone che la banca possa non farcela, quanto perché si teme che la banca ce la possa fare, che vada, riesca a andare sul mercato. Va spiegato che se tu hai un capitale di 100, diciamo, se tu fai un altro aumento di capitale da 2 miliardi, diluisci le quote di ognuno. Cioè sì, e poi deprimi il valore del titolo. Chi sottoscrive un aumento di capitale come quello da 5 miliardi appena chiuso, spera che il titolo, che le azioni salgano, e spera prima o poi di avere dei dividendi. Qua avviene il contrario, le azioni proprio per effetto di un nuovo aumento aumento di capitale o comunque di un nuovo rafforzamento patrimoniale necessario, scendono e a maggior ragione un dividendo non arriverà mai, quindi è ovvio che chi ha queste azioni se le vede deprezzare, depauperare. Il punto è che adesso, guardando al futuro, potrebbero avvenire due cose. Da un lato, la volatilità resterà sicuramente altissima, le azioni Monte Paschi e Carige potrebbero perdere ancora terreno, però prima o poi potrebbe iniziare la speculazione inversa, cioè la speculazione che prima o poi arrivi qualcuno, il Cavaliere Bianco, e se le compri, soprattutto il Monte Paschi. Quindi là, ai primi rumor di borsa, le prime indiscrezioni, le prime voci che facciano presupporre una scalata, un'OPA, un'acquisizione soprattutto sul Monte Paschi, questo potrebbe ovviamente invertire la speculazione e far tornare sulle azioni. Questo è un po' lo scenario borsistico che si può aprire. Altro è invece lo scenario reale, cioè se queste banche avranno poi la capacità di fare quello che che alle banche viene chiesto, cioè erogare credito. Due banche con un capitale così depresso difficilmente lo possono fare. Le altre banche invece, che hanno un surplus di capitale molto forte, adesso si spera che finalmente, anche se ci sono ancora molti molti molti dubbi, si spera però che finalmente ritornino a erogare credito all'economia reale. Allora sì, su questo si aprono vari scenari. Uno è capire esattamente quanto verrà diluito il capitale. Questo è quello tra virgolette più facile. Il titolo ha perso appunto un quinto del suo valore, mi riferisco al Monte dei Paschi. Mentre per quello che riguarda la Cassa di risparmio di Genova, il calo è pure lì del 17,20%, anche qui siamo vicini a un quinto del valore. Due banche, non a caso, e lì c'era riferimento anche sulla Banca d'Italia, coinvolte in due scandali enormi, quello del Monte dei Paschi, ma anche la Cassa di risparmio di Genova. Non è un caso se poi nessuno dà la colpa ovviamente a Profumo e a Viola, ci mancherebbe, però se tu ti ritrovi in condizioni più difficili delle altre, forse la gestione precedente qualcosa pesa, ecco, per essere buoni. Dall'altro tu dici, bene, fatto anche l'aumento di capitale e punito il titolo perché va a diluire il valore del titolo stesso, bisognerà capire poi che cosa ne sarà di questa banca, di queste banche. E lì potrebbero partire, se ho ben capito il tuo ragionamento, delle ipotesi di fusioni. È stata la stessa Banca d'Italia ieri ad auspicarlo, per cui è quello che auspicano in tanti, perché forse è la soluzione più facile e migliore per sollevare soprattutto il Monte dei Paschi. E poi l'ultimo aspetto riguarda anche il ruolo della banca sul territorio, nel senso che nel frattempo che cosa capiterà ai territori in cui questa banca opera in maniera forte, perché è difficile che una banca in queste condizioni possa mettersi a fare molto molto credito alle imprese. Sul fronte invece ci chiedono molti ascoltatori, ma gli aumenti di capitale devono per forza essere fatti con le azioni? Cioè, oddio, no, ma tendenzialmente sì, prego Maurizio. No, ci sono titoli cosiddetti ibridi che hanno valore di capitale, però qua stiamo parlando di cifre troppo grandi, cioè la vera sorpresa di borsa oggi è questa. Fino a settimana scorsa si speculava su un buco di capitale del Monte Paschi da un minimo di 400 milioni a un massimo di 1,7 miliardi, e quando si parlava di 1,7 miliardi il titolo Monte Paschi crollava in borsa già la settimana scorsa, e il punto che era ritenuto il giro di boa tra il bene e il male era il miliardo. Entro un miliardo di buco era considerato gestibile, oltre il miliardo era considerato problematico. Qui stiamo arrivati a 2,1 miliardi, quindi siamo ben oltre il doppio rispetto a quello che era considerato il punto massimo. E quindi è ovvio, adesso il Monte Paschi non ha ancora detto nulla su cosa farà, però fare un rafforzamento a 2 miliardi su una banca che in borsa ne vale 4 certo, e senza fare l'aumento di capitale non è così banale. E quindi diciamo è quasi una strada obbligata. Grazie anche a Moria Longo del Sole 24 Ore. Ci avviamo alla conclusione. Allora, qualcuno mi dice, no, guardi che è talmente assurdo il messaggio che paragonava i malati di SLA, i portatori di handicap, i non autosufficienti con i precari, i disoccupati, che lei se l'ha inventato. No, guarda, purtroppo non me lo sono inventato, non ho tempo per inventarmi i messaggi, ti assicuro che mi è arrivato. Tant'è che mi riscrive l'ascoltatore dicendo, promuova lei la raccolta fondi per i malati non autosufficienti e inizi a dare il suo contributo. Allora, due cose. A. quello che faccio io nel privato sono fatti miei e lei non lo può sapere, ma B, no, non esiste, cosa facciamo? Perché siccome il governo leva 100 milioni su 350, chiediamo un contributo ai privati. I privati già, se vogliono, hanno mille modi per dare un contributo alle onlus che si occupano di malati, di persone non autosufficienti. Non vi risparmio per cortesia tutti i messaggi che sono arrivati dai familiari delle persone non autosufficienti. Qui il problema non è mettere una foglia di fico alla porcata che ha fatto il governo. Ripeto, avete messo 150 milioni di euro per i forestali, non che non sono forestali, ma sono quei dipendenti della regione calabrese per motivi clientelari? Levateglieli. Non me ne frega nulla, trovate un'altra piega, levate i soldi ai ministeri, 100 milioni, 50 milioni in meno ai ministeri, manco se ne accorgono, 50 milioni in meno alle regioni, intanto dobbiamo tagliare 4 miliardi, ma ripeto, è indecente e fa schifo che il Presidente del Consiglio si tiri il secchio d'acqua in testa ad agosto per i malati di SLA e poi tagli di quasi il 30% il fondo per i non autosufficienti, che include anche i malati di SLA. Da domani lo ricorderemo tutti i giorni con un appuntamento apposito, fatto anche un po' meglio di come l'ho annunciato io, finché la finanziaria non viene approvata. E poi ci saranno i tweet, il Presidente del Consiglio è molto sensibile ai tweet, twitteremo, gli manderemo le mail, gli manderemo le lettere, e poi quello che possiamo fare lo facciamo. Ma non raccogliamo i soldi al posto del governo, è compito del governo trovare i 100 milioni e tagliarli da qualche altra parte. Grazie, arrivederci e buona serata a quasi tutti. Questa sera noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24. La passione si sente.